Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Gioacchin, 2007. Cuore, di Edmondo De Amicis. Maggio. Terza parte. Continuato del racconto mensile, dagli Appennini alle Ande. Il giorno dopo, di buon mattino, con la sua sacca sulle spalle, curvo e zoppicante, ma pieno d'animo, Marco entrava nella città di Tucuman, una delle più giovani e delle più floride città della Repubblica Argentina. Gli parve di rivedere Cordova, Rosario, Buenos Aires. Erano quelle stesse vie diritte e lunghissime, e quelle case basse e bianche, ma da ogni parte una vegetazione nuova e magnifica, un'aria profumata, una luce meravigliosa, un cielo limpido e profondo, come egli non l'aveva mai visto, neppure in Italia. Andando innanzi per le vie, riprovò l'agitazione febbrile che lo aveva preso a Buenos Aires. Guardava le finestre e le porte di tutte le case, guardava tutte le donne che passavano, con una speranza affannosa di incontrar sua madre, ma avrebbe voluto interrogar tutti e non osava fermare nessuno. Tutti, di sugli usci, si voltavano a guardare quel povero ragazzo stracciato e polveroso che mostrava di venir di tanto lontano. Ed egli cercava tra la gente un viso che gli ispirasse fiducia per rivolgergli quella tremenda domanda, quando gli occhi gli caddero sopra un'insegna di bottega su cui era scritto un nome italiano. C'era dentro un uomo con gli occhiali e due donne. Egli s'avvicinò lentamente alla porta e, fatto un animo risoluto, domandò: «Mi saprebbe dire, signore, dove sta la famiglia Mequines?» «Dell'ingegnere Mequines?» domandò il bottegaio a sua volta. «Dell'ingegnere Mequines», rispose il ragazzo con un fil di voce. «La famiglia Mequines», disse il bottegaio, «non è a Tucuman». Un grido di disperato dolore, come d'una persona pugnalata, fece eco a quelle parole. Il bottegaio e le donne s'alzarono. Alcuni vicini accorsero. «Che c'è? Che hai, ragazzo?» disse il bottegaio, tirandolo nella bottega e facendolo sedere. «Non c'è da disperarsi, che diavolo! I Mequines non son qui, ma poco lontano, a poche ore da Tucuman». «Dove? Dove?» gridò Marco, saltando su come un risuscitato. «A una quindicina di miglia di qua», continuò l'uomo, «in riva al Saladillo, in un luogo dove stanno costruendo una grande fabbrica da zucchero, un gruppo di case. C'è la casa del signor Mequines. Tutti lo sanno. Ci arriverai in poche ore». «Ci sono stato io un mese fa», disse un giovane che era accorso al grido. Marco lo guardò con gli occhi grandi e gli domandò precipitosamente, impallidendo: «Avete visto la donna di servizio del signor Mequines, l'italiana?» «La genovesa? L'ho vista!» Marco ruppe in un singhiozzo convulso, tra di riso e di pianto. Poi, con un impeto di risoluzione violenta: «Dove si passa? Presto! La strada! Parto subito! Insegnatemi la strada!» «Ma c'è una giornata di marcia!» gli dissero tutti insieme. «Sei stanco! Devi riposare! Partirai domattina!» «Impossibile! Impossibile!» rispose il ragazzo. «Ditemi dove si passa! Non aspetto più un momento! Parto subito! Dovessi morire per via!» Vistolo irremovibile, non s'opposero più. «Dio t'accompagni», gli dissero. «Bada alla via per la foresta. Buon viaggio, italianito!» Un uomo lo accompagnò fuori di città, gli indicò il cammino, gli diede qualche consiglio e stette a vederlo partire. In capo a pochi minuti il ragazzo scomparve, zoppicando, con la sua sacca sulle spalle, dietro agli alberi folti che fiancheggiavano la strada. Quella notte fu tremenda per la povera inferma. Essa aveva dei dolori atroci, che le strappavano degli urli da rompersi le vene e le davano dei momenti di delirio. Le donne che l'assistevano perdevano la testa. La padrona correva di tratto in tratto, sgomentata. Tutti cominciarono a temere che, se anche si fosse decisa a lasciarsi operare, il medico che doveva venire la mattina dopo sarebbe arrivato troppo tardi. Nei momenti che non delirava, però, Si capiva che il suo più terribile strazio non erano i dolori del corpo, ma il pensiero della famiglia lontana. Smorta, disfatta, col viso mutato, si cacciava le mani nei capelli con un atto di disperazione che passava l'anima e gridava: «Dio mio, Dio mio, morire tanto lontana, morire senza rivederli, i miei poveri figliuoli che rimangono senza madre, le mie povere creature, il povero sangue mio, il mio Marco che è ancora tanto piccolo, alto così, tanto buono e affettuoso. Voi non sapete che ragazzo era. Signora, se sapesse, non me lo potevo staccare dal collo quando son partita. Singhiozzava da far compassione, singhiozzava. Pareva che lo sapesse che non avrebbe mai più rivisto sua madre, povero bambino mio. Credevo che mi scoppiasse il cuore. Ah, se fossi morta allora, morta mentre mi diceva addio, morta fulminata fossi. Senza madre, povero bambino, lui che m'amava tanto, che aveva tanto bisogno di me. Senza madre, nella miseria, dove andrà accattando lui, Marco, Marco mio, che tenderà la mano affamato? Oh, Dio eterno, no, non voglio morire. Il medico, chiamatelo subito. Venga, mi tagli, mi squarci il seno, mi faccia impazzire, ma mi salvi la vita. Voglio guarire, voglio partire, fuggire, domani, subito. Il medico, aiuto, aiuto! E le donne le afferravano le mani, la calmavano, pregando, la facevano tornare in sé poco a poco. E le parlavano di Dio e di speranza. E allora essa ricadeva in un abbattimento mortale, piangeva con le mani nei capelli grigi, gemeva come una bambina, mettendo un lamento prolungato e mormorando di tratto in tratto: «Oh, la mia Genova, la mia casa, tutto quel mare! Oh, Marco mio, il mio povero Marco, dove sarà ora la povera creatura mia?» Era mezzanotte e il suo povero Marco, dopo aver passato molte ore sulla sponda d'un fosso, stremato di forze, camminava allora attraverso a una foresta vastissima di alberi giganteschi, mostri della vegetazione dai fusti smisurati, simili a pilastri di cattedrali che intrecciavano a un'altezza meravigliosa le loro enormi chiome inargentate dalla luna. Vagamente in quella mezza oscurità egli vedeva miriadi di tronchi di tutte le forme, ritti, inclinati, scontorti, incrociati in atteggiamenti strani di minaccia e di lotta, alcuni rovesciati a terra come torri cadute tutte d'un pezzo e coperti d'una vegetazione fitta e confusa che pareva una folla furente che se li disputasse a palmo, altri raccolti in grandi gruppi, verticali e serrati, come fasci di lance titaniche, di cui la punta toccasse le nubi, una grandezza superba, un disordine prodigioso di forme colossali, lo spettacolo più maestosamente terribile che egli avesse mai offerto la natura vegetale. A momenti lo prendeva un grande stupore, ma subito l'anima sua si rilanciava verso sua madre, ed era sfinito, coi piedi che facevan sangue, solo in quella formidabile foresta, dove non vedeva che a lunghi intervalli delle piccole abitazioni umane, che ai piedi di quegli alberi parevan nidi di formiche e qualche bufalo addormentato lungo la via. Era sfinito, ma non sentiva la stanchezza. Era solo e non aveva paura. La grandezza della foresta ingrandiva l'anima sua. La vicinanza di sua madre gli dava la forza e la baldanza d'un uomo. La ricordanza dell'oceano, degli sgomenti, dei dolori sofferti e vinti, delle fatiche durate, della ferrea costanza spiegata, gli facevano alzare la fronte. Tutto il suo forte e nobile sangue genovese gli rifluiva al cuore in un'onda ardente d'alterezza e d'audacia. E una cosa nuova seguiva in lui, che mentre fino allora aveva portata nella mente un'immagine della madre oscurata e sbiadita un poco da quei due anni di lontananza. In quei momenti quell'immagine gli si schiariva. Egli rivedeva il suo viso intero e netto come da un lungo tempo non l'aveva visto più. Lo rivedeva vicino, illuminato, parlante. Rivedeva i movimenti più sfuggevoli dei suoi occhi e delle sue labbra. tutti i suoi atteggiamenti, tutti i suoi gesti, tutte le ombre dei suoi pensieri, e sospinto da quei ricordi incalzanti, affrettava il passo, e un nuovo affetto, una tenerezza indicibile gli cresceva nel cuore, facendogli correre giù pel viso delle lacrime dolci e quiete, e andando avanti nelle tenebre, le parlava, le diceva le parole che le avrebbe mormorate all'orecchio tra poco. «Son qui, madre mia, eccomi qui, non ti lascerò mai più, torneremo a casa insieme e io ti starò sempre accanto sul bastimento, stretto a te, e nessuno mi staccherà mai più da te, nessuno, mai più, finché avrai vita». E non s'accorgeva intanto che sulle cime degli alberi giganteschi andava morendo la luce argentina della luna nella bianchezza delicata dell'alba. Alle 8 di quella mattina il medico di Tucuman, un giovane argentino, era già al letto della malata, in compagnia d'un assistente, a tentare per l'ultima volta di persuaderla a lasciarsi operare, e con lui ripetevano le più calde istanze l'ingegner McInnes e sua signora. Ma tutto era inutile. La donna, sentendosi esausta di forze, non aveva più fede nell'operazione. Essa era certissima di morire sull'atto, o di non sopravvivere che poche ore, dopo aver sofferto invano dei dolori più atroci di quello che la dovevano uccidere naturalmente. Il medico badava a ridirle: «Ma l'operazione è sicura, ma la vostra salvezza è certa, purché ci mettiate un po' di coraggio, ed è ugualmente certa la vostra morte se vi rifiutate». Eran parole buttate via. «No», essa rispondeva con la voce fioca, «ho ancora coraggio per morire, ma non ne ho più per soffrire inutilmente». «Grazie, signor dottore, è destinato così, mi lasci morire tranquilla». E il medico, scoraggiato, desistette. Nessuno parlò più. Allora la donna voltò il viso verso la padrona e le fece con voce moribonda le sue ultime preghiere. «Cara, buona signora», disse a gran fatica, singhiozzando, «lei manderà quei pochi denari e le mie povere robe alla mia famiglia, per mezzo del signor console. Io spero che siano tutti vivi. Il cuore mi predice bene in questi ultimi momenti. Mi farà la grazia di scrivere che ho sempre pensato a loro, che ho sempre lavorato per loro, per i miei figliuoli, e che il mio solo dolore fu di non rivederli più, ma che son morta con coraggio, rassegnata, benedicendoli, e che raccomando a mio marito, al mio figliuolo maggiore, il più piccolo, il mio povero Marco, che ho avuto in cuore fino all'ultimo momento». Ed esaltandosi tutto a un tratto, gridò giungendo le mani: «Il mio Marco, il mio bambino, la mia vita!» Ma girando gli occhi pieni di pianto, vide che la padrona non c'era più. Eran venuti a chiamarla furtivamente. Cercò il padrone, era sparito. Non restavan più che le due infermiere e l'assistente. Si sentiva nella stanza vicina un rumore affrettato di passi, un mormorio di voci rapide e sommesse, ed esclamazioni rattenute. La malata fissò sull'uscio gli occhi velati, aspettando. Dopo alcuni minuti vide comparire il medico con un viso insolito, poi la padrona e il padrone, anch'essi col viso alterato. Tutti e tre guardarono con un'espressione singolare e si scambiarono alcune parole a bassa voce. Le parve che il medico dicesse alla signora: «Meglio subito». La malata non capiva. «Giusefa», le disse la padrona con voce tremante, «ho una buona notizia da darvi. Preparate il cuore a una buona notizia». La donna la guardò attentamente. «Una notizia», continuò la signora sempre più agitata, «che vi darà una grande gioia». La malata dilatò gli occhi. «Preparatevi», proseguì la padrona, «a vedere una persona a cui volete molto bene». La donna alzò il capo con uno scatto vigoroso e cominciò a guardare rapidamente ora la signora, ora l'uscio, con gli occhi sfolgoranti. «Una persona», soggiunse la signora impallidendo, «arrivata orora, inaspettatamente». «Chi è?» gridò la donna con una voce strozzata e strana, come di persona spaventata. Un istante dopo gittò un grido altissimo, balzando a sedere sul letto e rimase immobile, con gli occhi spalancati e con le mani alle tempie, come davanti a un'apparizione sovrumana. Marco, lacero e polveroso, era là ritto sulla soglia, trattenuto per un braccio dal dottore. La donna urlò tre volte: «Dio, Dio, Dio mio!» Marco si slanciò avanti. Essa protese le braccia scarne e, serrandolo al seno con la forza di una tigre, scoppiò in un riso violento, rotto da profondi singhiozzi senza lacrime, che la fecero ricader soffocata sul cuscino. Ma si riprese subito e gridò pazza di gioia, tempestandogli il capo di baci. «Come sei qui? Perché? Sei tu? Come sei cresciuto? Chi t'ha condotto? Sei solo? Non sei malato? Sei tu, Marco? Non è un sogno. Dio mio, parlami!» Poi, cambiando tono improvvisamente: «No, taci, aspetta!» E voltandosi verso il medico, a precipizio: «Presto, subito, dottore! Voglio guarire, son pronta! Non perdo un momento! Conducete via Marco che non senta!» «Marco mio, non è nulla, mi racconterai! Ancora un bacio! Va! Eccomi qui, dottore!» Marco fu portato via. I padroni e le donne uscirono in fretta. Rimasero il chirurgo e l'assistente, che chiusero la porta. Il signor McInnes tentò di tirar Marco in una stanza lontana, ma fu impossibile. Egli pareva inchiodato al pavimento. «Cosa c'è?» domandò. «Cosa ha mia madre? Cosa le fanno?» E allora il McInnes, piano, tentando sempre di condurlo via: «Ecco, senti, ora ti dirò. Tua madre è malata. Bisogna farle una piccola operazione. Ti spiegherò tutto. Vieni con me.» «No», rispose il ragazzo impuntandosi. «Voglio star qui. Mi spieghi qui.» L'ingegnere ammontava parole su parole, tirandolo. Il ragazzo cominciava a spaventarsi e a tremare. A un tratto un grido acutissimo, come il grido d'un ferito a morte, risuonò in tutta la casa. Il ragazzo rispose con un altro grido disperato: «Mia madre è morta!» Il medico comparve sull'uscio e disse: «Tua madre è salva!» Il ragazzo lo guardò un momento e poi si gettò ai suoi piedi singhiozzando: «Grazie, dottore!» Ma il dottore lo rialzò d'un gesto, dicendo: «Levati! Sei tu, eroico fanciullo, che hai salvato tua madre!» Mercoledì 24. Estate. Marco, il genovese, era il penultimo piccolo eroe di cui facciamo conoscenza quest'anno. Non ne resta che uno per il mese di giugno. Non ci sono più che due esami mensili, 26 giorni di lezione, 6 giovedì e 5 domeniche. Si sente già l'aria della fine dell'anno. Gli alberi del giardino, fronzuti e fioriti, fanno una bell'ombra sugli attrezzi della ginnastica. Gli scolari sono già vestiti da estate. È bello ora veder l'uscita delle classi, com'è tutto diverso dai mesi scorsi. Le capigliature che toccavano le spalle sono andate giù. Tutte le teste sono rapate. Si vedono gambe nude e colli nudi, cappellini di paglia d'ogni forma, con i nastri che scendono fin sulle schiene, camicie e cravattine di tutti i colori, tutti i più piccoli con qualche cosa addosso di rosso o d'azzurro, una mostra, un orlo, una nappina, un cencino di color vivo appiccicato pur che sia dalla mamma. Perché faccia figura, anche i più poveri, e molti vengono alla scuola senza cappello, come scappati di casa. Alcuni portano il vestito bianco della ginnastica. C'è un ragazzo della maestra Delcati che è tutto rosso da capo a piedi, come un gambero cotto. Parecchi sono vestiti da marinai, ma il più bello è il muratorino, che ha messo su un cappellone di paglia, che gli dà l'aria d'una mezza candela col paralume. Ed è un ridere a vedergli fare il muso di lepre là sotto. Coretti anche ha smesso il suo berretto di pelo di gatto e porta un vecchio berretto di seta grigia da viaggiatore. Votini ha una specie di vestimento alla scozzese, tutto attillato. Crossi mostra il petto nudo. Precossi sguazza dentro a un camiciotto turchino da fabbro ferraio. E Garoffi? Ora che ha dovuto lasciare il mantellone, che nascondeva il suo commercio, gli rimangono scoperte tutte le tasche gonfie d'ogni sorta di carabattole da rigattiere e gli spuntan fuori le liste delle lotterie. Ora tutti lascian vedere quello che portano: dei ventagli fatti con mezza gazzetta, dei bocciuoli di canna, delle frecce da tirare agli uccelli, dell'erba, dei maggiolini che sbucan fuori dalle tasche e vanno su pian piano per le giacchette. Molti di quei piccoli portano dei mazzetti di fiori alle maestre. Anche le maestre son tutte vestite da estate, di colori allegri, fuorché la monachina, che è sempre nera, e la maestrina dalla penna rossa, ha sempre la sua penna rossa, e un nodo di nastri rosa al collo, tutti sgualciti dalle zampette dei suoi scolari, che la fanno sempre ridere e correre. È la stagione delle ciliegie, delle farfalle, delle musiche sui viali e delle passeggiate in campagna. Molti di quarta scappano già a bagnarsi nel Po. Tutti hanno già il cuore delle vacanze. Ogni giorno si esce dalla scuola più impazienti e contenti del giorno innanzi. Soltanto mi fa una pena il veder Garrone col lutto e la mia povera maestra di prima, che è sempre più smunta e più bianca e tosse sempre più forte. Cammina curva ora e mi fa un saluto così triste. Venerdì 26. Lettera. Poesia. Tu cominci a comprendere la poesia della scuola, Enrico, ma la scuola per ora non la vedi che di dentro. Ti parrà molto più bella e più poetica fra 30 anni, quando ci verrai ad accompagnare i tuoi figliuoli, e la vedrai di fuori come io la vedo. Aspettando l'uscita, io giro per le strade silenziose intorno all'edificio e porgo l'orecchio alle finestre del pian terreno, chiuse dalle persiane. Da una finestra sento la voce di una maestra che dice: «Ah, quel taglio di T! Non va, figliuol mio! Che ne direbbe tuo padre?» Alla finestra vicina è la grossa voce d'un maestro che detta lentamente: «Comperò 50 metri di stoffa a lire 4,50 al metro. Li rivendette». Più in là è la maestrina della penna rossa, che legge ad alta voce: «Allora, Pietro Micca, con la miccia accesa...» Dalla classe vicina esce come un cinguettio di 100 uccelli, che vuol dire che il maestro è andato fuori un momento. Vo innanzi e alla svoltata del canto sento uno scolaro che piange e la voce della maestra che lo rimprovera e lo consola. Da altre finestre vengono fuori dei versi, dei nomi d'uomini grandi e buoni, dei frammenti di sentenze che consigliano la virtù, l'amor di patria, il coraggio. Poi seguono dei momenti di silenzio, in cui si direbbe che l'edificio è vuoto. E non par possibile che ci siano dentro 700 ragazzi. Poi si sentono degli scoppi rumorosi di larità, provocati dallo scherzo d'un maestro di buon umore. E la gente che passa si sofferma ad ascoltare, e tutti rivolgono uno sguardo di simpatia a quell'edificio gentile che racchiude tanta giovinezza e tante speranze. Poi si ode un improvviso strepito sordo, un batter di libri e di cartelle, uno stropiccio di piedi, un ronzio che si propaga di classe in classe e dal basso all'alto, come al diffondersi improvviso d'una buona notizia. È il bidello che gira ad annunziare il finis. E a quel rumore una folla di donne, d'uomini, di ragazze e di giovinetti si stringono di qua e di là dalla porta ad aspettare i figliuoli, i fratelli, i nipotini, mentre dagli usci della classe schizzano fuori come zampillando nel camerone i ragazzi piccoli a pigliar cappottini e cappelli, facendone un arruffio sul pavimento e balbettando tutti in giro finché il bidello li ricaccia dentro uno a uno. E finalmente escono, in lunghe file, battono i piedi. E allora da tutti i parenti comincia la pioggia delle domande. «Hai saputo la lezione? Quanto t'ha dato del lavoro? Che cosa avete per domani? Quando è l'esame mensile?» E anche le povere madri che non sanno leggere aprono i quaderni, guardano i problemi, domandano i punti. «Solamente 8? 10 con lode? 9 di lezione?» E si inquietano e si rallegrano e interrogano i maestri e parlano di programmi ed esami. Com'è bello tutto questo, com'è grande e che immensa promessa è per il mondo. Firmata tuo padre. Domenica 28, la sordomuta. Non potevo finirlo meglio con la visita di questa mattina, il mese di maggio. Udiamo una scampanellata, corriamo tutti. Sento mio padre che dice con tono di meraviglia: «Voi qui, Giorgio?» Era Giorgio, il nostro giardiniere di Chieri, che ora ha la famiglia a Condove, arrivato allora da Genova, dove era sbarcato il giorno avanti, di ritorno dalla Grecia, dopo 3 anni che lavorava alle strade ferrate. Aveva un grosso fagotto fra le braccia. È un po' invecchiato, ma sempre rosso in viso e gioviale. Mio padre voleva che entrasse, ma egli disse di no e domandò subito facendo il viso serio: «Come va la mia famiglia? Come sta Gigia?» «Bene fino a pochi giorni fa», rispose mia madre. Giorgio tirò un gran sospiro. «Oh, sia lodato Iddio! Non avevo il coraggio di presentarmi ai sordomuti senza aver notizie di lei. Io lascio qui il fagotto e scappo a pigliarla. 3 anni che non la vedo, la mia povera figliuola. 3 anni che non vedo nessuno dei miei». Mio padre mi disse: «Accompagnalo». «Ancora una parola, mi scusi», disse il giardiniere sul pianerottolo, ma mio padre gli interruppe: «E gli affari?» «Bene», rispose, «grazie a Dio. Qualche soldo l'ho portato, ma volevo domandare, come va l'istruzione della mutina? Dica un po'». «Io l'ho lasciata che era come un povero animaletto, povera creaturina. Io ci credo poco, già, a questi collegi. Ha imparato a fare i segni?» «Mia moglie mi scriveva bene. Impara a parlare, fa progressi». «Ma», dicevo io, «che cosa vale che impari a parlare lei se io i segni non li so fare? Come faremo a intenderci, povera piccina? Quello è buono a capirsi fra loro, un disgraziato con l'altro. Come va, dunque? Come va?» Mio padre sorrise e rispose: «Non vi dico nulla, vedrete voi. Andate, andate, non le rubate un minuto in più». Uscimmo, l'istituto è vicino. Strada facendo, a grandi passi, il giardiniere mi parlava, rattristandosi: «Ah, la mia povera Gigia! Nascere con quella disgrazia! Dire che non mi son mai sentito chiamare padre da lei! Che lei non s'è mai sentita chiamar figliuola da me! Che mai non ha detto né inteso una parola al mondo! E grazie che s'è trovato un signore caritatevole che ha fatto le spese dell'istituto! Ma tanto! Prima degli 8 anni non c'è potuto andare. Son 3 anni che non è in casa. Va per gli 11 adesso. È cresciuta? Mi dica un po', è cresciuta? È di buon umore?» ora vedrete», gli risposi affrettando il passo. «Ma dov'è quest'istituto?» domandò. «Mia moglie ce l'accompagnò che ero già partito. Mi pare che debba essere da queste parti». Eravamo appunto arrivati. Entrammo subito nel parlatoio. Ci venne incontro un custode. «Sono il padre di Gigia Voggi», disse il giardiniere. «La mia figliola, subito, subito». «Sono in ricreazione», rispose il custode. «Vado ad avvertir la maestra», e scappò. Il giardiniere non poteva più né parlare, né star fermo. Guardava i quadri alle pareti, senza veder nulla. La porta s'aperse. Entrò una maestra vestita di nero, con una ragazza per mano. Padre e figliuola si guardarono un momento e poi si slanciarono l'uno nelle braccia dell'altro, mettendo un grido. La ragazza era vestita di rigatino bianco e rossiccio, con un grembiale bianco. «È più alta di me», piangeva e teneva suo padre stretto al collo con tutte e due le braccia. Suo padre si svincolò e si mise a guardarla da capo a piedi, coi lucciconi agli occhi, ansando come se avesse fatto una gran corsa. Esclamò: «Ah, com'è cresciuta, come s'è fatta bella! Oh, la mia cara, la mia povera Gigia! La mia povera mutina! È lei, signora, la maestra? Le dica un po' che mi faccia pure i suoi segni, che qualche cosa capirò, e poi imparerò a poco. Le dica che mi faccia capire qualche cosa coi gesti». La maestra sorrise e disse a bassa voce alla ragazza: «Chi è quest'uomo che t'è venuto a trovare?» E la ragazza, con una voce grossa, strana, stonata, come quella d'un selvaggio che parlasse per la prima volta la nostra lingua, ma pronunciando chiaro e sorridendo rispose: «È mio padre». Il giardiniere diede un passo indietro e gridò come un matto: «Parla! Ma è possibile! Ma è possibile! Parla! Ma tu parli, bambina mia, parli! Dimmi un poco, parli!» E di nuovo l'abbracciò e la baciò sulla fronte 3 volte. «Ma non è coi gesti che parlano, signora maestra? Non è con le dita così? Ma cos'è questo?» «No, signor Voggi», rispose la maestra, «non è coi gesti. Quello era il metodo antico. Qui si insegna col metodo nuovo, col metodo orale». «Come, non lo sapevate?» «Ma io non ne sapevo niente», rispose il giardiniere trasecolato. 3 anni che son fuori. Oh, me l'avranno scritto e non ho capito. Sono una testa di legno io. Oh, figliuola mia, tu mi capisci dunque? Senti quello che ti dico?» «Ma no, buon uomo», disse la maestra, «la voce non la sente, perché è sorda. Essa capisce dai movimenti della vostra bocca quali sono le parole che voi dite. Ecco la cosa. Ma non sente le vostre parole, e neppure quelle che essa dice a voi. Le pronuncia perché le abbiamo insegnato lettera per lettera come deve atteggiare le labbra e muover la lingua, e che sforzo deve fare col petto e con la gola per metter fuori la voce». Il giardiniere non capì e stette a bocca aperta. Non ci credeva ancora. «Dimmi, Gigia», domandò alla figliuola, parlandone all'orecchio, «sei contenta che tuo padre sia ritornato?» E rialzato il viso, stette ad aspettar la risposta. La ragazza lo guardò, pensierosa, e non disse nulla. Il padre rimase turbato. La maestra rise, poi disse: «Buon uomo, non vi risponde perché non ha visto i movimenti delle vostre labbra. Le avete parlato all'orecchio. Ripetete la domanda tenendo bene il vostro viso davanti al suo». Il padre, guardandola bene in faccia, ripeté: «Sei contenta che tuo padre sia ritornato, che non se ne vada più via?» La ragazza, che gli aveva guardato attenta le labbra, cercando anche di vedergli dentro la bocca, rispose francamente: «Sì, sono contenta che sei tornato, che non vai via mai più». Il padre l'abbracciò impetuosamente e poi, in fretta e in furia, per accertarsi meglio, la affollò di domande: «Come si chiama la mamma?» «Antonia». «Come si chiama la tua sorella piccola?» «Adelaide». «Come si chiama questo collegio?» «Dei sordomuti». «Quanto fa 2 volte 10?» 20. Mentre credevamo che ridesse di gioia, tutto a un tratto si mise a piangere, ma era gioia anche quella. «Animo», gli disse la maestra, «avete motivo di rallegrarvi, non di piangere. Vedete che fate piangere anche la vostra figliuola. Siete contento, dunque?» Il giardiniere afferrò la mano alla maestra e gliela baciò 2 o 3 volte, dicendo: «Grazie, grazie, 100 volte grazie, 1000 volte grazie, cara signora maestra. E mi perdoni che non le so dire altro». «Ma non solo parla», gli disse la maestra, «la vostra figliuola sa scrivere, sa far di conto, conosce il nome di tutti gli oggetti usuali, sa un poco di storia e di geografia. Ora è nella classe normale. Quando avrà fatte le altre 2 classi, saprà molto, molto di più. Uscirà di qui che sarà in grado di prendere una professione. Ci abbiamo già dei sordomuti che stanno nelle botteghe a servire gli avventori e fanno i loro affari come gli altri». Il giardiniere rimase stupito da capo. Pareva che gli si confondessero le idee un'altra volta. Guardò la figliuola e si grattò la fronte. Il suo viso domandava ancora una spiegazione. Allora la maestra si voltò al custode e gli disse: «Chiamatemi una bimba della classe preparatoria». Il custode tornò poco dopo con una sordomuta di 8 o 9 anni, entrata da pochi giorni nell'istituto. «Questa», disse la maestra, «è una di quelle a cui insegniamo i primi elementi. Ecco come si fa. Voglio farle dire e, state attento». La maestra aperse la bocca, come si apre per pronunciare la vocale e, e accennò alla bimba che aprisse la bocca nella stessa maniera. La bimba obbedì, Allora la maestra le fece cenno che mettesse fuori la voce. Quella mise fuori la voce, ma invece di E pronunziò O. «No», disse la maestra, «non è questo». E pigliate le due mani della bimba, se ne mise una aperta sulla gola e l'altra sul petto, e ripeté «E». La bimba, sentito con le mani il movimento della gola e del petto della maestra, riaperse la bocca come prima e pronunziò benissimo «E». Nello stesso modo la maestra le fece dire «C» e «D», sempre tenendosi le due piccole mani sul petto e sulla gola. «Avete capito ora?» domandò. Il padre aveva capito, ma pareva più meravigliato di quanto non capiva. «E insegnano a parlare in quella maniera?» domandò dopo un minuto di riflessione, guardando la maestra. «Hanno la pazienza di insegnare a parlare a quella maniera, a poco, a tutti quanti, a uno per uno, per anni ed anni? Ma loro sono santi, sono! Ma loro sono angeli del paradiso! Ma non c'è al mondo una ricompensa per loro! Che cosa ho da dire? Ah, mi lascino un poco con la mia figliuola ora! Me la lascino 5 minuti, per me solo!» E tiratala a sedere in disparte, cominciò a interrogarla e quella a rispondere. Ed egli rideva con gli occhi lustri, battendosi i pugni sulle ginocchia e pigliava la figliuola per le mani, guardandola. Fuor di sé dalla contentezza a sentirla, come se fosse una voce che venisse dal cielo. Poi domandò alla maestra, «Il signor direttore, sarebbe permesso di ringraziarlo?» «Il direttore non c'è», rispose la maestra, «ma c'è un'altra persona che dovreste ringraziare. Qui ogni ragazza piccola è data in cura a una compagna più grande che le fa da sorella, da madre. La vostra è affidata a una sordomuta di 17 anni, figliuola d'un fornaio, che è buona e le vuol molto bene. Da 2 anni va ad aiutarla a vestirsi ogni mattina, la pettina, le insegna a cucire, le accomoda la roba, le tien buona compagnia. Luigia, come si chiama la tua mamma dell'istituto?» La ragazza sorrise un po'. «Luigia, come si chiama la tua mamma dell'istituto?» La ragazza sorrise e rispose «Caterina Giordano». Poi disse a suo padre «Molto, molto buona». Il custode, uscito a un cenno della maestra, ritornò quasi subito con una sordomuta bionda, robusta, di viso allegro, vestita anch'essa di rigatino rossiccio col grembiale grigio, la quale si arrestò sull'uscio e arrossì. Poi chinò la testa, ridendo. Aveva il corpo di una donna e pareva una bambina. La figliuola di Giorgio le corse subito incontro, la prese per un braccio, come una bimba, e la tirò davanti a suo padre, dicendo con la sua grossa voce «Caterina Giordano». «Ah, la brava ragazza!» esclamò il padre e allungò la mano per carezzarla, ma la tirò indietro e ripeté «Ah, la buona ragazza! Che Dio la benedica! Che le dia tutte le fortune, tutte le consolazioni, che la faccia sempre felice lei e tutti i suoi. Una buona ragazza così, povera la mia Gigia, è un onesto operaio, un povero padre di famiglia che glielo augura di tutto cuore». La ragazza grande accarezzava la piccola, sempre tenendo il viso basso e sorridendo, e il giardiniere continuava a guardarla come una Madonna. «Oggi vi potete pigliar con voi la vostra figliuola», disse la maestra. «Se me la piglio», rispose il giardiniere, «me la conduco a Condove e la riporto domani mattina. Si figuri un po' se non me la piglio». La figliuola scappò a vestirsi. «Dopo 3 anni che non la vedo», riprese il giardiniere, «ora che parla. A Condove subito me la porto, ma ora voglio fare un giro per Torino con la mia mutina a braccetto, che tutti la vedano, e condurla dalle mie 4 conoscenze, che la sentano. Ah, la bella giornata! Questa si chiama una consolazione. Qual braccio a tuo padre, Gigia mia?» La ragazza, che era tornata con una mantellina e una cuffietta, gli diede il braccio. «E grazie a tutti», disse il padre di sull'uscio. «Grazie a tutti con tutta l'anima mia. Tornerò ancora una volta a ringraziar tutti». Rimase un momento sopra pensiero. Poi si staccò bruscamente dalla ragazza, tornò indietro frugandosi con una mano nella sottoveste e gridò come un furioso: «Ebbene, sono un povero diavolo, ma ecco qui, lascio 20 lire per l'istituto, un marengo d'oro bell'e nuovo». E dando un gran colpo sul tavolino, vi lasciò il marengo. «No, no, brav'uomo», disse la maestra commossa, «ripigliatevi il vostro denaro, io non posso accettare, ripigliatevelo, non tocca a me. Verrete quando ci sarà il direttore, ma non accetterà nemmeno lui, statene sicuro. Avete faticato troppo per guadagnarveli, pover'uomo. Vi saremo tutti grati lo stesso». «No, io lo lascio», rispose il giardiniere intestato, «e poi si vedrà». Ma la maestra gli rimise la moneta in tasca, senza lasciargli il tempo di respingerla. E allora egli si rassegnò, crollando il capo. E poi, rapidamente, mandato un bacio con la mano alla maestra e alla ragazza grande, e ripreso il braccio della sua figliuola, si slanciò con lei fuori della porta dicendo: «Vieni, vieni, figliuola mia, povera mutina mia, mio tesoro!» E la figliuola esclamò con la sua voce grossa: «Oh, che bel sole!» Fine del mese di maggio.